Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera, campionato che è andato in scena ieri sera con la sua penultima giornata, campionato italiano, ma adesso siamo tutti qui ad aspettare la finale d'Europa, la finale per il titolo, la finale, la partita più bella della stagione del basket europeo. Inizia tra 25 minuti, da una parte le due grandi favorite, da una parte il Barcellona, dall'altra l'Olympiacos, mia personale favorita. Dario Ricci, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Intanto abbiamo visto già la finale per il terzo posto, vinta dal Zesca sul Partizan dopo un supplementare. Abbiamo Flavio Tranquillo da Parigi, giusto per un attimo. Flavio, buonasera. Buonasera. Ciao Flavio, presentami, ti chiedo solo di presentarmi questa finale che stiamo aspettando. Guarda, la stiamo aspettando tutti, infatti tra 10 minuti cominciamo a produrla qui da Parigi per il segnale internazionale dell'Eurolega. Direi, se il ritmo si alza troppo, il Barcellona è imbattibile. Se l'Olympiacos riesce, senza snaturarsi, a tenerlo basso il giusto, io credo che abbia lo 0,1% di possibilità in più, perché per la prima volta da tanto tempo è in qualche maniera sfavorita e questo potrebbe giocare a vantaggio dei greci. Grazie Flavio, buon lavoro. Un abbraccio, buona partita. Buona partita, Flavio Tranquillo, che ritroveremo. A questo proposito, ve lo dico subito, ritroveremo venerdì, naturalmente, Flavio Tranquillo, come ogni benedetto venerdì con Palla Spicchi, però ci aspetto una puntata specialissima, ve lo dico, ve lo anticipo anche perché devo chiedervi un favore. Dunque, sarà con noi Andrea Bargnani venerdì in questi studi. Vi chiedo soltanto, per questioni meramente organizzative, se volete parlare con Bargnani, se volete intervenire telefonicamente, vi prego di inviarci una email a tempodisport@radio24.it con il vostro recapito telefonico, poi saremo noi a contattarvi, non per, vi assicuro, non per questioni di trattamenti privilegiati, ma esclusivamente per questioni tecniche. Quindi non è che facciamo degli sconti a Bargnani, un trattamento di favore, solo questioni tecniche. Vi chiedo pertanto di fare così. Dario Ricci, la finale per il terzo posto a Parigi com'è andata? Splendida finale per il terzo posto, ancora una volta il Partizan, così come era accaduto contro l'Olympiacos, beffato ai supplementari, 90-88 per il CSKA a Mosca di un grandissimo Trajan Langdon, 32 punti in 45 minuti di gioco, insomma di lui proprio in questa occasione non si poteva fare a meno, come dimostra il tabellino. 17 poi per Viktor Kryapa, che lo ricordiamo è stato anche nominato nel quintetto dei migliori di questa edizione dell'Eurolega, e 13 per una vecchia conoscenza del nostro basket, Šiškauskas, ancora una volta protagonista di questa sfida, Carlo. E se Mattias Modis non fosse quello che è adesso, dopo una stagione da inattivo, solo 4 minuti per lui, un punto, quindi ininfluente, anzi 0 punti, ininfluente su questa partita come sulla semifinale, se non fosse stato in queste condizioni magari avremmo avuto un'altra finale questa sera a Parigi. Altro parere eccellente sulla partita che ci aspetta lo chiedo al mio amico Luca Chiabotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Abbiamo sentito la presentazione di questa finale di Flavio Tranquillo. La tua qual è? Ci sarà, per una bella partita, che il Barcellona ha qualcosa in più, però l'Olympiacos è una squadra molto tosta, è una squadra che è in un sistema magari non facilissimo da comprendere, però che è riuscito a mettere tanti giocatori importanti al servizio della squadra e che quindi ha una profondità veramente spaventosa e impressionante. Per cui se il Barcellona ha giocato meglio per tutta la stagione, ha dei lampi di talento incredibili, l'Olympiacos nei ruoli diciamo esterni è più grosso, più potente, è più duro e quindi cercherà di metterla sulla lotta. Credo che il Barcellona sia favorito, però sarà una partita veramente dura, difficile. Sì. Luca, il modo in cui l'Olympiacos ha vinto la semifinale con il Partizan, Olympiacos che da anni insegue, spendendo una montagna di quattrini, insegue questo titolo europeo, il modo in cui ha vinto quella partita col Partizan, secondo te può aver aggiunto qualcosa all'Olympiacos? Nella testa magari dell'Olympiacos? Assolutamente, perché loro l'anno scorso sono arrivati alle Final Four e sono stati impattati dal derby col Panathinaikos, che l'eterno derby sempre perduto negli ultimi 13 anni, e hanno perso comunque anche lì all'ultimo tiro. Il fatto di trovarsi sotto in quel modo contro una squadra outsider, con una partita già persa, essere risorti a due secondi dalla fine, credo che abbia dato una forza, una consapevolezza che prima non avevano. Adesso sentono ovviamente ancora tutta la pressione addosso, però anche parlando ieri con loro, erano molto molto molto più tesi per la semifinale. Adesso sanno che devono giocare una grande partita, ma comunque ci sono in lotta, non hanno meno paura, questo è sicuro. Luca, potrebbe essere questo l'ultimo grande ballo del basket greco sotto la spinta di questa feroce crisi economica, oppure lo sport greco potrebbe sopravvivere a questa ondata? Ma io credo che generalizzare lo sport greco è difficile. Credo che lo sport greco in generale stia facendo degli schiaffi a livello economico da una crisi incredibile. Per quello che riguarda l'Olympiakos e il Panathinaikos, sono situazioni un po' particolari. L'Olympiakos è di proprietà di due fratelli, Angelopoulos, che sono i nipoti della famosa Gianna delle Olimpiadi, che hanno un patrimonio personale, leggevo, se non è stato aggiornato negli ultimi tempi, di più o meno 3 miliardi di dollari personale, per cui credo che non abbiano nessuna intenzione di non dare all'Olympiakos anche in futuro, e soprattutto in caso di vittoria, tutti i soldi necessari per continuare a stare al vertice. Poi, se la situazione greca continuerà in questo modo, chiaramente non ci potranno essere che ripercussioni, però sono noccioline, soffrirà un po' di più il Panathinaikos, ma anche lì siamo di magnati dell'industria, certo, che sfuggono un po' dal quadro generale. Si dovranno domandare chi giocherà contro di loro in Grecia, perché questo sarà il reale, esatto, problema. Credo che in un clima di disastro per loro sarà ancora più facile a questo punto. Senti Luca, per salutarti ti giro un'altra considerazione un po' cattiva, forse un po' perversa da parte mia, però l'Olympiakos ha vinto come ha vinto con il Partizan. L'Olympiakos è una squadra che ha due giocatori da 16 milioni di dollari, due soli, Kleiza e Childress, due soli valgono 16 milioni di dollari, prendono 16 milioni di dollari. Il Partizan è una squadra che fa la stagione con 3 milioni. Questo è un insegnamento anche per i nostri, che dicono: ah, ma come budget non competiamo, non facciamo neanche la gara con quelli lì. Ma è evidente che il Partizan non solo ha un budget di 3 milioni che viene definito dalle nostre squadre non sufficiente per vincere il campionato italiano, è evidente che la strada è quella. Si può giocare bene a pallacanestro, pescando degli americani interessanti come sicuramente McCaleb, che tra un po' riceverà chissà quanti centinaia di milioni di dollari d'offerta dai nostri club, e magari qui è venuto con poco. Bisogna essere bravi, bisogna essere furbi, bisogna essere coraggiosi, perché ieri Vujosevic, che ha 5 giocatori di cui un paio, due o tre buoni, gli altri così così, ma ne ha 5 nei momenti difficili per far fiatare, ha messo dentro un ragazzo del 91, l'ha fatto giocare ed è arrivato a un tiro aveva praticamente vinto la partita. Quindi giocare a pallacanestro ci vogliono idee, ci vuole coraggio, bisogna uscire un po' da questo discorso del budget, che è vero che poi per vincere l'Eurolega, certo, ci vuole, certo, ma santo Dio, per essere qua basta un buon allenatore, un progetto, dei ragazzi e una voglia di sfidare il mondo che francamente dalle nostre parti è un po' di anni che non si vede. Un po' latita. Grazie Luca, buon lavoro, buona partita. Grazie, arrivederci. Palla spicchi. Ecco che torniamo con un altro nostro amico Stefano Valenti di Superbasket. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buonasera. Sono stato appena stato un po' cattivo. Ho detto che ho fatto notare il budget del Partizan, no? E ho ricordato che dalle nostre parti c'è chi dice: ah, ma Siena non si può battere con quello che spende. Ah, ma in Europa dove vogliamo andare con i nostri budget? Sì, è vero, anche se poi comunque sui numeri, dati, comunicati, reali, bisogna sempre stare un pochino attenti. Diciamo che la realtà economica, fiscale e politica di quel paese è leggermente diversa dalla nostra. Sì. Però senza dubbio è un club che ha fatto di necessità virtù. Insomma, secondo me il dato più importante che emerge dal risultato ottenuto, al di là delle due sconfitte sul filo, è quello che comunque questo è un club che ha ricominciato a costruire giocatori, o comunque cambiare ogni anno giocatori, pur essendo passato non più di pochi anni fa da una guerra civile, insomma, ecco, quindi un evento talmente catastrofico che può rompere completamente col passato e creare anni di buco. Per certi versi la nazionale ce l'ha avuta, e lì invece no, anche perché è ovvio che ad esempio quello è un nome che, se c'è da reclutare qualche giovane in giro per il paese, puoi spendere con grande facilità. Da noi magari ipoteticamente un giovane di pari qualità può scegliere tra 3, 4, 5 opzioni. Lì è come, insomma, quando c'è una chiamata alle armi, sì, assolutamente. Una frase magari poco felice, però in realtà è qui, cioè è l'obiettivo di qualunque giovane di quel paese poter entrare in quel club, perché quel club garantisce poi zero qualità di lavoro e quanto d'altro. Dubbi zero su questo, è una religione il Partizan da quelle parti. Venendo alle cose di casa nostra, di sera abbiamo visto una penultima di campionato che ha lasciato in sospeso diversi discorsi, mio caro, sia sull'anti, no, l'anti Siena è troppo, sia su chi arriverà secondo, terzo, quarto, sia su chi retrocederà, perché il calendario disegna un'ultima giornata pazzesca, Sì, senza dubbio, lo ha fatto qualcuno che ne sapeva più di noi, questo è evidente, insomma, ecco, quindi, così come per il secondo posto, insomma, Caserta-Roma è una partita tutta da vedere, molto interessante, grande rivalità, così come vedere cosa farà Milano, che continua a essere illeggibile per i suoi momenti di vuoto, e poi invece i due quarti con i quali ha messo al tappeto brutalmente Montegranaro, insomma. Non ci sono grandi riferimenti da questo punto di vista. L'ultima giornata forzatamente ce li darà, sia per quello che riguarda appunto il secondo posto tra Milano e Caserta, e anche per la salvezza. Questo Biella Ferrara è veramente lo spareggio. La matematica ci dice che potrebbe anche non essere la condanna per chi perde quella partita, a patto che Cremona venga sconfitta in casa da Avellino, che sembrava a un certo punto fuori dai giochi, e invece, episodi automobilistici ed altro a parte, è riuscito a difendere con i denti questo ottavo posto, e ovviamente cercherà di continuare a difenderlo per raggiungere un risultato che forse poteva essere non pronosticabile. Domenica tutti guarderemo a quel che succede a Biella, perché siamo inevitabilmente attratti dal dramma, ecco. Sì, naturale. Ecco Stefano, però messi da parte un po' il taccuino e il pallottoliere per la calcolatrice per fare i conti, le sensazioni cosa ti dicono su questa lotta salvezza, su questa corsa? Domanda bruttissima questa. Le sensazioni dicono che il momento ormai negativo e abbastanza prolungato di Biella non aiuta. È una squadra che con grandi sfortune ha perso riferimenti, e è chiaro che è una squadra che obiettivamente era costruita su Fred Jones, che si è perso per motivi diversi durante la stagione, che ha avuto un grande Aradori a sopperire l'assenza di Jones, ma che poi anche lui ha cominciato ad avere inevitabilmente grandi attenzioni alle difese, serbatoio magari anche un pochino vuoto, inevitabilmente, anche perché Biella comunque ha iniziato la stagione molto bene, grande entusiasmo, ma anche con la Coppa. Paga tassa all'Europa, Biella potrebbe pagare la tassa all'Europa. Se dobbiamo andare a leggere questo, è chiaro e lampante che tutte le squadre che hanno fatto le coppe non hanno raggiunto i loro risultati, né da una parte né dall'altra, a parte Siena, perché Treviso stessa lotta per entrare nei playoff, non ha fatto neanche la final eight di Coppa Italia, Teramo salva, così si è trovato un po' salvezza in mano, ma ha avuto una stagione molto complessa, Biella neanche a dirlo, insomma, Roma lo stesso Pesaro ha dovuto passare attraverso il cambio di allenatore, cambio di organico. Pesaro è quella che, come dire, voleva trovare lustri in Europa, l'ha trovato arrivando fino alla soglia della Final Four, però lo ha fatto col patema di dover vincere disperatamente in campionato, rischiando a lungo la salvezza per poi trovarsi in retrocessa salva grazie ai risultati delle altre. Sì. Quindi le coppe incidono senza discussione. Dall'altra parte del campo domenica ci sarà Ferrari, che è una squadra che si è riorganizzata in corsa, ha sicuramente messo dei pezzi importanti, quello di Scheroford in primis, però ha trovato anche la condizione di Spinelli. Domenica ci saranno tra l'altro due ex abbastanza importanti su quelle che saranno le sorti della partita, perché Valerio Spinelli ha preso in mano la situazione a Ferrara ed è grande giocatore di pick and roll come lo è Scheroford, e c'è anche Sven Schulze, che fu importante nel buon avvio di stagione di Biella, ma che Biella ritroverà dall'altra parte. Certo. Fattore campo per Biella, ci sarà però grande pressione, ci saranno anche tanti ferraresi. Grazie Stefano, ne parliamo domenica naturalmente. Grazie a voi, volentieri. Grazie ciao. Stefano Valenti. Io per chiudere il panorama sul basket italiano e poi vi porto a New York, vi porto in America. C'è il primo giro di playoff in Lega 2, salta al fattore campo a Casale Monferrato, dove vince Udine 73-69. Per il resto vittorie interne: Veroli su Scaffati 94-90, Sassari su Pistoia 92-82. In corso siamo all'intervallo, Reggio Emilia Vigevano 32-40 il parziale. Io vedo, Dario, vedi Danilovic con il nostro amico Coach Dan Peterson e Nicolò Trigari per Sport Italia, che trasmetterà la finale tra 7 minuti, il salto a 2. Sasha Danilovic, sentiamolo. Non solo una grande squadra, ma una squadra con un cuore eccezionale. Sì, in effetti abbiamo, fino ad oggi abbiamo fatto una stagione veramente straordinaria. Abbiamo vinto la Coppa Nazionale, abbiamo vinto Adriatic League, siamo arrivati nel Final Four, abbiamo perso queste partite in pochi punti, però tutto sommato sono molto contento, anzi contentissimo e molto orgoglioso a questi ragazzi e anche all'allenatore. Questo è Sasha Danilovic. Adesso andiamo davvero negli Stati Uniti. Simone Sandri, buonasera. Buonasera, buonasera Carlo. Abbiamo 3 minuti per fare una spremuta di playoff americani. Cosa ci aspetta? Cosa è successo la notte scorsa e cosa ci aspetta questa notte, questa sera in realtà? Allora, la notte scorsa è successo che i Lakers sono riusciti a vincere sul difficile campo dei Jazz con una vittoria stentata di un punto all'ultimo secondo, con Matthews dei Jazz che proprio allo scadere non è riuscito a convertire un tap-in che sembrava praticamente dentro il canestro, ma che il canestro ha sputato fuori, per cui i Lakers sono a un passo dalla finale della Western Conference. Orlando ha dominato Atlanta, ma su questo non credo che ormai ci siano grossi dubbi su questo risultato. Loro hanno praticamente prenotato il biglietto per la finale della Eastern Conference già da una settimana. E oggi ci sono partite interessanti, perché c'è Boston che ha bisogno assolutamente di vincere in casa contro Cleveland, una partita che inizierà tra mezz'ora, dopo che LeBron James ha fatto cose straordinarie in gara 3, ha veramente fatto la differenza a Boston in una gara che i Celtics avrebbero dovuto vincere per poter mettere pressione ai Cavaliers. E poi c'è questa, sicuramente la serie più sorprendente di questi playoff, gli Spurs, che devono vincere in casa per evitare l'incredibile cappotto da parte dei Suns, che venerdì hanno vinto una partita incredibile dopo essere stati praticamente sotto per tre quarti. Nell'ultimo quarto è salito in casa tra non Steve Nash, non Amare Stoudemire, ma Goran Dragic, segnando 23 punti nel quarto, ha fatto la differenza e ha praticamente messo a capo gli Spurs, che adesso hanno veramente bisogno di fare qualcosa di straordinario, qualcosa che non è mai successo nella storia dell'NBA, cioè vincere 4 partite consecutive per poter andare al turno successivo. Ecco, ti aspettavi questo 3-0? No, direi impronosticabile, no? Visti soprattutto il San Antonio che avevano fatto fuori Dallas, Simone. Assolutamente, è sorprendente il modo in cui i Suns hanno vinto le tre partite, in modi diversi: in gara 1 giocando il loro basket, in gara 2 anche grazie ai rimbalzi offensivi, grazie anche a una fisicità che sulla carta il vantaggio lo si dava agli Spurs. E venerdì, grazie a questa straordinaria panchina, a questa straordinaria prova del playmaker sloveno Dragic in modo assolutamente strano, ma più che meritato, e se i Suns stanno dimostrando di essere una squadra a prendere con le molle. Io credo che i Lakers nella finale della Western Conference, che sembra ormai scritta perché sono due serie che sono 3-0, sono strafavoriti per il fatto che hanno troppi centimetri sotto canestro, hanno dei mismatch in quasi tutti i ruoli con i Suns, però devo dire che i Suns hanno fatto una stagione straordinaria, perché il fatto di arrivare alla finale della Western Conference, salvo un miracolo da parte degli Spurs, sia qualcosa che nessuno avrebbe potuto pensare all'inizio stagione. Certo. Grazie Simone, alla prossima! Grazie a voi! Grazie a Simone Sandri. Dario, adesso noi chiudiamo i microfoni e ci guardiamo la finale di Eurolega. Okay? E poi ci vediamo pure Cleveland-Boston. Ah, non c'è dubbio. Serata dedicata al basket. Fino a notte. Grazie a Dario Ricci, grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona serata a tutti.